Questo è un festival che rientra in un progetto molto ampio, molto più ampio, che già esiste da qualche anno e che porta il cinema dove, in quei luoghi dove il cinema non può arrivare solitamente, quindi in strutture ad esempio di reclusione, al carcere, alla casa circondariale della Dozza, negli ospedali, all'ospedale maggiore, nelle scuole, nelle mense che aiutano le persone in stato di bisogno. Ecco, questo è il quadro di attività di tutto un anno in cui da quest'anno si inserisce anche questo festival, quindi è una sorta di concentrato che cerca, è un modo anche per restituire tutta questa attività, tutto questo lavoro che viene fatto durante l'anno, e quindi è un festival che dura una settimana al Cinema Perla, in cui ci saranno dei concorsi, tre concorsi, uno riservato alle scuole, uno di cortometraggi e uno di lungometraggi, e poi ci saranno degli incontri, le proiezioni per le scuole saranno la mattina, al pomeriggio ci saranno dei talk di approfondimento alle 18 e poi in serata delle proiezioni con degli ospiti, ci sarà anche un concerto, uno spettacolo teatrale multimediale, il tutto riunito da questo titolo, La Terra vista dalla Luna. Perché questo titolo? Il titolo riprende un omaggio a Pasolini, un cortometraggio di Pasolini del 67, di un film collettivo che si chiamava Le Streghe, e l'idea è quella di provare a raccontare quello che accade, quello che ci accade tutti i giorni, con uno sguardo che insomma provi ad essere un po' distante, un po' lunare, cioè quindi cercando un po' di uscire dagli schemi con cui interpretiamo la realtà. E quindi è ovvio che ci saranno dei film anche con tematica che guarderanno al futuro, con uno sfondo di fantascienza, ma non solo, perché non è solo la fantascienza che deve guardare avanti. Il cinema è uno strumento potentissimo di visione, di anticipazione del futuro, è sempre stato così dai tempi di Méliès, quindi dai suoi inizi, e oggi probabilmente fa invece più fatica a guardare davanti, proprio per la complessità del presente. Ma guardare avanti vuol dire darsi una prospettiva, vuol dire anche cercare di dettare in qualche modo anche i comportamenti e le azioni del nostro presente. Quale visione ha cercato di concretizzare? Cosa si augura per questo festival? Ma io spero che ci siano, che le persone, i ragazzi, i giovani, le ragazze, insomma, che vengono, si portino via un po' di spunti, un po' di idee su cui riflettere, su cui ragionare, su cui costruire anche le loro visioni, perché poi siamo in un'epoca in cui il linguaggio delle immagini è centrale, è fondamentale, quindi bisogna ovviamente non solo, come dire, consumarlo, ma bisogna anche utilizzarlo, bisogna leggerlo, interpretarlo. Quindi nell'ultima mostra del cinema di Venezia, ad esempio, c'erano tantissimi film ambientati nel passato, ovviamente con un riverbero anche sul presente, guardando il presente, però per me è stato un campanello, nel senso che se facciamo così, se abbiamo bisogno di andare nel passato per riuscire a parlare del presente, vuol dire che abbiamo un problema, un deficit proprio di strategia, di visione, e spero che questo festival costituisca un piccolo contributo in questa direzione. Il programma, c'è qualcosa che vuole evidenziare o qualcosa che sta di novità? Sì, beh, noi avremo dei film, oltre a quelli in concorso naturalmente, ma avremo dei film che magari sono passati molto rapidamente nelle sale o che non sono passati. Avremo il primo film lunedì sera, La guerra del Tiburtino Terzo, che è un film della Factory dei Manetti Bros, infatti ci sarà Marco Manetti, uno dei due fratelli registi, in questo caso come produttore. Avremo questo spettacolo multimediale che si chiama Pale Blue Dot, che è stato realizzato proprio dagli studenti. Questo è un festival dove ci sono tantissime scuole coinvolte. Gli studenti non saranno solo spettatori, nel senso che poi voteranno anche i film in concorso, ma sono partecipi, sono protagonisti. Questo spettacolo è stato fatto proprio da tanti ragazzi, insieme ovviamente seguiti all'interno di un percorso, ma è uno spettacolo che parla di una fuga nello spazio, ma anche lì cercando di guardare che cosa succede sulla Terra. Ed è una forma anche di linguaggio multimediale, dove ovviamente viene stimolata un'esperienza plurisensoriale che credo possa essere anche interessante e debba essere anche un altro terreno su cui lavorare per il futuro.